Per natura, Tom non era portato ad attendersi ciò che non gli si presentasse come suscettibile di essere richiesto in base a un diritto. Perché mai la gente avrebbe dovuto dare con larghezza il suo denaro a chi non aveva saputo aver cura del proprio? Nella severità, Tom vedeva qualche giustizia, tanto più che aveva fiducia che lui personalmente non sarebbe mai incorso in quelle giuste severità. Era molto duro per lui d'essere stato messo dall'imprudenza paterna in questa posizione svantaggiosa, ma non avrebbe mai espresso un rammarico o trovato dei torti alla gente che non gli appianava la via. Non avrebbe chiesto a nessuno di aiutarlo, se non col dargli lavoro e retribuirlo per questo. Al povero Tom non mancavano certe speranze in cui trovare rifugio contro la fredda, buia prigionia della nebbia decembrina, che pareva soltanto una parte dei suoi dispiaceri domestici. A 16 anni, anche gli spiriti più fortemente portati al concreto non possono sfuggire all'illusione e all'amor proprio. E Tom, nel disegnarsi il proprio avvenire, non aveva, per combinare i fatti, altra guida che i suggerimenti della sua coraggiosa fiducia in se stesso. Tanto Mr. Glegg quanto Mr. Dean lo sapevano bene. Erano stati molto poveri agli inizi. Egli non intendeva di economizzare lentamente per ritirarsi con un modesto capitale come zio Glegg, ma voleva fare come zio Dean, avere un posto in qualche grande casa di commercio e arrivare rapidamente. Negli ultimi 3 anni aveva veduto di rado lo zio Dean. Le sue famiglie erano vissute più separate, ma proprio per questo Tom si rivolgeva a lui con più speranza. Lo zio Glegg ne era sicuro, non avrebbe mai incoraggiato un animoso progetto. Ma delle risorse che erano a disposizione dello zio Dean, egli si faceva invece un'idea vaga ed imponente. Tempo prima aveva sentito dire dal babbo che Dean si era saputo talmente far valere alla Guest & Co. che quelli erano stati felici di offrirgli una partecipazione nell'azienda. Tom si proponeva appunto un simile programma. Gli riusciva insopportabile il pensiero di rimanere povero e disprezzato per tutta la vita. Avrebbe provveduto alla madre e alla sorella, e tutti avrebbero dovuto riconoscere che era un uomo di carattere. Per tal modo scavalcava gli anni e nella alacrità dei forti propositi e dei forti desideri, non vedeva che gli anni erano composti di lenti giorni e ore e minuti. Nel frattempo aveva attraversato il ponte di pietra sulla Floss, e mentre stava entrando in St. Oaks pensava che quando sarebbe stato ricco avrebbe ricomprato il mulino e le terre del babbo e riparata la casa per abitarvi. L'avrebbe preferita a qualunque altra più elegante e più nuova e vi avrebbe potuto tenere quanti cavalli e cani voleva. Procedendo lungo la via, a passi fermi e rapidi, fu riscosso a questo punto del suo fantasticare da qualcuno che gli aveva incrociato senza accorgersene e che gli disse con voce rude e familiare: «Oh, Padron Tom, come sta vostro padre stamattina?» Era un albergatore di St. Oaks, uno dei clienti di suo padre. Dispiacque a Tom che gli venisse rivolta la parola proprio in quel momento, ma rispose urbanamente: «Ancora molto male, grazie». Ah, è stato un brutto affare per voi, giovanotto, che in quella causa egli abbia avuto la peggio, non è vero? Disse l'oste con un confuso proposito, da uomo mezzo ubriaco di birra, di mostrare il proprio buon cuore. Tom arrossì e passò oltre. L'allusione, anche più delicata e cortese, alla sua posizione gli sarebbe parsa un ruvido tocco su una ferita. Questo è il figlio di Tulliver, disse l'albergatore a un droghiere che se ne stava sulla soglia di una porta vicina. Ah, disse il droghiere, mi pareva di riconoscere la fisionomia. Tiene tutto dalla famiglia di sua madre, che era una Dodson. È un bel ragazzo, ben fatto. A che mestiere l'han tirato su? Oh, ad arricciare il naso davanti ai clienti di suo padre e a fare il bell'uomo, niente di più, credo. Tom, destato dai suoi sogni d'avvenire ad una piena consapevolezza del presente, si affrettò quanto più poteva per giungere ai magazzini della Guest & Co., dove contava trovare lo zio Dean. Ma era la mattina che Mr. Dean passava alla banca, lo avvertì un commesso, con un certo disprezzo per la sua ignoranza. Al giovedì mattina Mr. Dean non si trovava mai in River Street. Alla banca Tom fu ricevuto nell'ufficio particolare dello zio, non appena gli ebbe mandato a dire il proprio nome. Mr. Dean stava rivedendo dei conti, ma all'entrare di Tom alzò gli occhi e tendendogli la mano disse: "Bene, Tom, niente di nuovo a casa, spero. Come sta il babbo?" "È su per giù lo stesso, zio, grazie", disse Tom, sentendosi emozionato. "Ma vorrei parlarvi, per favore, quando sarete libero." "Sedetevi, sedetevi", disse Mr. Dean, tornando ai suoi conti, nei quali egli e del segretario rimasero così assorbiti per tutta la mezz'ora seguente che Tom cominciò a domandarsi se avrebbe dovuto rimanersene lì seduto fino alla chiusura della banca. Pareva che il tranquillo e monotono procedimento di quei paffuti e prosperi uomini d'affari non avesse la minima tendenza verso una conclusione. Forse che lo zio gli darebbe un posto in banca? Sarebbe stato un lavoro ben noioso e prosaico, gli pareva. Doversene stare sempre lì a scrivere sotto il forte ticchettio di una pendola. Ah, preferiva qualche altro modo di diventare ricco, ma alla fine si produsse un cambiamento. Lo zio prese la penna e scrisse qualcosa con uno svolazzo in fondo. "Ora voi farete un passo fin da Torino, vero, Mr. Spence?" disse Mr. Dean, ed improvviso il ticchettio della pendola divenne, agli orecchi di Tom, meno forte e meno deciso. "Bene, Tom", disse Mr. Dean, quando furono soli, girando un poco sulla seggiola la sua grossa persona ed estraendo la tabacchiera. "Di che si tratta, figliuolo? Di che si tratta?" Mr. Dean, che aveva saputo dalla moglie quel che era successo il giorno prima, pensava che Tom fosse venuto da lui per chiedergli qualche mezzo di scongiurare la vendita all'asta. "Spero mi scuserete se vi disturbo, zio", disse Tom, arrossendo, ma parlando con voce che, quantunque tremante, aveva un accento di fiera indipendenza. "Ma ho pensato che eravate voi la persona meglio adatta a consigliarmi su quel che ho da fare." "Ah", disse Mr. Dean, tenendo fra le dita il suo pizzico di tabacco e guardando Tom con nuova attenzione. "Sentiamo un po'. Desidererei di trovare un impiego, zio, in modo da poter guadagnare un po' di denaro", disse Tom, che non cadeva mai nelle perifrasi. "Un impiego?" disse Mr. Dean, e poi distribuì con esperta giustizia la sua presa tra le due narici. Tom pensò che quella di prendere tabacco è un'abitudine molto irritante. "Bene, vediamo un po'. Quanti anni avete?" disse Mr. Dean, tornando a rovesciarsi all'indietro. "16. Voglio dire, sto entrando nei 17", disse Tom, sperando che lo zio notasse come gli era già barbuto. "Vediamo, vostro padre aveva qualche intenzione di farvi fare l'ingegnere, non è vero? Ma credo che allora non riuscirei a guadagnare nulla per un bel pezzo, non è così?" "Questo è vero, ma non c'è nessun affare che renda molto quando non si ha che 16 anni, ragazzo mio. Comunque voi siete stato parecchio tempo in collegio. Credo che conoscerete benissimo la contabilità, no? Ve ne intendete di tenere i libri?" "No", disse Tom con una certa esitazione. "Io frequentavo la grammatica, ma Mr. Stelling dice che ho una bella scrittura, zio. Ecco la mia scrittura", soggiunse Tom, deponendo sul tavolo una copia dell'elenco che aveva fatto il giorno prima. "Ah, è buona, è buona. Ma vedete, la più bella scrittura del mondo non vi può procurare posto migliore che quello di scrivano, se non sapete nulla della tenuta dei libri, nulla di contabilità. E uno scrivano è un articolo a buon mercato. Ma che cosa avete imparato a scuola allora?" Mr. Dean non s'era occupato dei metodi di educazione, non aveva un'idea precisa di quel che si faceva nei collegi ad alta retta. "Imparavo il latino", disse Tom, fermandosi un poco tra una voce e l'altra della propria enumerazione, come se disponesse i libri sul suo banco di scolaro per confortare la propria memoria. "Tanto latino. E nell'ultimo anno facevo dei temi, una settimana in latino e l'altra in inglese, poi la storia greca e romana, e poi si faceva un giorno di aritmetica ogni settimana, e ho anche preso delle lezioni di disegno, e poi c'erano parecchi altri libri che si leggevano o si studiavano a memoria, l'antologia inglese, le ore pauline e la retorica di Blair nell'ultimo semestre." Mr. Dean picchiò di nuovo sulla tabacchiera e torse la bocca. Si sentiva nella situazione di molte degne persone che, letta la nuova tariffa, hanno scoperto quante merci vengano importate di cui essi non sapevano nulla. Da prudente uomo di affari, Non avrebbe mai parlato con leggerezza di un argomento del quale non avesse esperienza, ma presumeva che se quelle cose fossero state di qualche utilità, un uomo arrivato come lui difficilmente le avrebbe ignorate. Sul latino aveva la sua opinione e pensava che nel caso di un'altra guerra, dal momento che la gente non voleva più portare la parrucca incipriata, sarebbe stato bene di mettere una tassa sul latino, come oggetto di lusso molto ricercato dalle classi elevate, che non avevano nulla a che vedere con la categoria degli armatori. Ma per quanto ne sapeva, le ore paoline potevano essere qualcosa di meno indifferente. Tutto sommato, questo elenco di cognizioni gli diede una specie di antipatia contro il povero Tom. Bene, disse alla fine con voce piuttosto fredda e sardonica. Avete speso 3 anni in quelle cose, dovete essere piuttosto fondato. Non fareste meglio a scegliervi qualche carriera in cui esse possano riuscirvi vantaggiose? Tom arrossì e con nuova energia replicò: Preferirei non avere un'occupazione di quel genere, zio. Non amo il latino e tutte quelle cose. Non so che potrei farmene a meno di andare assistente in un collegio, ma in tal caso non ne saprei abbastanza, senza contare che quasi quasi preferirei di mettermi a fare il merciaiuolo ambulante. Non ho nessuna fantasia di diventare un individuo di quella specie. Vorrei entrare in qualche affare dove potessi far carriera, un affare da uomo, in cui avessi da sorvegliare come vanno le cose, mi guadagnassi la fiducia col mio lavoro e poi ho bisogno di mantenere mia madre e mia sorella. Ah, giovanotto, disse Mr. Dean, con quella tendenza a reprimere le giovanili speranze in cui i prosperi e fortunati uomini di 50 anni trovano uno dei loro più facili doveri. Questo è più presto detto che fatto, più presto detto che fatto. Ma voi non avete fatto carriera in questo modo? Disse Tom, un po' irritato che Mr. Dean non penetrasse più rapidamente nelle sue vedute. Voglio dire, non vi siete elevato da un posto all'altro con i vostri meriti e la vostra buona condotta? Signor mio, disse Mr. Dean, sdraiandosi un po' sulla sua sedia e imbarcandosi con grande prontezza in una commemorazione della propria carriera. Ve lo dirò io come ho fatto, non mi è certo bastato di mettermi a cavalcioni su un bastone e di pensare che esso si sarebbe mutato in un cavallo, solo che io ci rimanessi sopra per un certo tempo. Ho tenuto gli occhi e gli orecchi bene aperti, signor mio, e non ho avuto troppa tenerezza per la mia pelle, e ho fatto miei gli interessi del mio padrone, ecco. Solo ad osservare quello che succedeva al mulino, ho scoperto che c'era una perdita di 500 sterline all'anno che si poteva evitare. Ebbene, signor mio, per cominciare non ho avuto più istruzione che un bambino delle scuole di carità, ma mi sono accorto molto per tempo che non sarei potuto andare lontano senza possedere a fondo la contabilità, e me la sono studiata nelle ore libere, quando avevo finito di fare le spedizioni. Guardate qui. Mr. Dean ha perso un libro e indicò una pagina. Io ho una scrittura abbastanza buona e posso tenere testa a chi che sia, in qualunque specie di calcolo a memoria, ma ci sono arrivato con un duro studio, tutto pagato con i miei guadagni, facendo spesso a meno del pranzo e della cena, e analizzavo a fondo tutte le cose che avevano rapporto con gli affari e aumentavo le mie cognizioni mentre sbrigavo il lavoro, e poi me le rigiravo ben bene nella testa, e già, io non sono un meccanico. E non ho mai preteso di esserlo, ma ho pensato una o due cose che ai meccanici non erano mai venute in mente, e ciò ha portato una discreta differenza nei nostri guadagni, e non c'è articolo imbarcato o sbarcato sul nostro molo di cui io non conosca la qualità. Se ho trovato dei posti, signor mio, è stato perché mi sono reso idoneo a coprirli. Se volete sgusciare attraverso un buco rotondo, dovete trasformarvi in una palla, così. Mr. Dean tornò a picchiare sulla sua tabacchiera. Trasportato nel suo dire da un ingenuo entusiasmo, aveva completamente dimenticato quale relazione avesse col suo ascoltatore questa commemorazione retrospettiva. Già più di una volta prima di allora aveva trovato l'occasione di ripetere le stesse cose e non si rendeva ben conto che davanti a sé non aveva il suo bicchiere di porto. Bene, zio, disse Tom con una punta di tristezza nella voce. Questo è appunto ciò che mi piacerebbe di fare. Non potrei far carriera nello stesso modo? Nello stesso modo, disse Mr. Dean, gettando gli occhi su Tom con tranquilla decisione. Ci sono due o tre punti interrogativi, Mr. Tom. Dipende, per intanto, dalla qualità di materiale con cui siete costruito e se siete stato colato nello stampo giusto, ma vi dirò io come stanno le cose. Il vostro povero babbo, dandovi tante istruzioni, ha proprio scelto la strada falsa per avviarvi al lavoro. Non era affar mio e non me ne sono immischiato, ma è andata a finire come me l'immaginavo. Il genere di educazione che avete ricevuto va benissimo per un giovanotto come il nostro Steven Guest, che in tutta la vita non avrà mai altro da fare che firmare assegni e può benissimo avere nella testa tanto il latino quanto un altro riempitivo di qualunque genere. Ma zio, disse Tom vivamente, non riesco a capire perché il latino dovrebbe impedirmi di fare strada negli affari. Farò presto a dimenticarlo completamente. Tanto per me è tutt'uno. In collegio dovevo studiare le mie lezioni, ma ho sempre pensato che non mi sarebbero state di alcuna utilità per l'avvenire, e non me la sono mai presa calda. Questo va tanto bene, disse Mr. Dian, ma non cambia quello che stavo per dirvi. Il vostro latino e le vostre tiritere potranno svaporare anche subito, ma dopo di ciò voi non sarete che un ramo secco, senza contare che queste cose vanno imbiancate le mani e tolto la possibilità di lavorar sodo. E poi cosa sapete? Ecco, della tenuta dei libri niente, per cominciare, e di calcolo neppure quanto un bottegaio qualunque. Dovrete partire da un gradino molto basso, lasciate che ve lo dica, se volete andare avanti nel mondo. Non serve dimenticare l'istruzione che vostro padre v'ha data, spendendo tanti quattrini, se non riuscite poi a farvene una nuova. Tom si morse le labbra a sangue. Sentiva come se stessero per sgorgargli le lacrime, avrebbe preferito morire che lasciarle venir fuori. Voi volete che v'aiuti a farvi una posizione? Continuò Mr. Dean. Bene. Su questo non trovo nulla a ridire, sono disposto a fare qualche cosa per voi, ma la gioventù di oggigiorno crede di poter cominciare con una vita di agio e con un lavoro facile, non ha idea che bisogna andare a piedi prima di salire a cavallo. Ora voi dovete ricordarvi di quello che siete, un ragazzo di 16 anni senza alcuna preparazione speciale, come voi ce n'è un mucchio, come tanti sassi fatti in modo che non vanno bene in nessun posto. Beh, voi potrete entrare come apprendista in qualche negozio, in una farmacia o drogheria, per esempio. Lì il vostro latino potrebbe servirvi a qualche cosa. Tom stava per parlare, ma Mr. Dean alzò la mano e disse: Un momento, sentite quello che ho da dirvi. Voi non volete fare l'apprendista, lo so, voi volete far più presto e non avete voglia di stare dietro un banco. Ma se fate lo scrivano, dovete stare dietro un tavolo, con gli occhi fissi tutto il giorno sull'inchiostro e sulla carta. Grandi prospettive lì non ce n'è, e alla fine dell'anno non sarete tanto più furbo che a principio. Il mondo non è fatto di carta, penna e calamaio. Se volete andare avanti nel mondo, giovanotto, bisogna che sappiate di che cosa è fatto il mondo. Ora, per voi, l'opportunità migliore sarebbe di trovare un impiego in uno scalo o in un magazzino, dove imparerete che odore sanno le cose. Ma questo non vi andrà a genio, potrei giurarlo. Vi toccherebbe di stare al freddo e all'umido ed essere preso a spallate da tipi grossolani. Siete un troppo delicato signorino per questo. Mr. Dean tacque e guardò severamente Tom, il quale dovette certo lottare un po' contro se stesso prima di poter rispondere. Sarò contento di fare quello che alla fine può portarmi più vantaggio, signore. Saprò adattarmi a quello che mi era sgradevole. Benissimo, se saprete resistervi. Ma dovete ricordarvi che non basta di afferrare una corda, bisognerà seguitare a tirarla. L'errore in cui cadete, voi altri ragazzi, che non avete niente nel cervello e niente in tasca, è quello di credere d'esservi meglio lanciati nel mondo se vi piantate in un posto dove possiate tenere i vostri abiti puliti e dove ci siano delle commesse che vi prendano per gentili signorini. Non è così che io ho cominciato, giovanotto. Quando avevo 16 anni la mia blusa puzzava di pece e non mi spaventavo di maneggiare dei formaggi. E questa è la ragione per cui ora posso portare degli abiti di panno fino e tenere le gambe sotto la stessa tavola con i capi delle migliori ditte di St. Oaks. Zio Dian picchiò sulla sua tabacchiera e parve un po' gonfiarsi sotto il suo panciotto con tanto di catena d'oro mentre distendeva le spalle sulla seggiola. Sapete di qualche posto che sia libero ora, zio, e che vada per me? Sarei contento di mettermi subito al lavoro, disse Tom con un lieve tremito nella voce. Un momento, non bisogna che abbiamo troppa premura, occorre vi mettiate in mente che Se vi faccio entrare in un posto per il quale siate troppo giovane, dato che siete mio nipote, sarò io responsabile per voi. E non c'è nessun'altra ragione, lo sapete, che quella di essere mio nipote, perché rimane ancora a vedersi se siate buona qualcosa. Spero che non vi farò mai fare delle brutte figure, zio, disse Tom, offeso, come lo sono sempre i ragazzi al sentirsi dichiarare questa spiacevole verità, che la gente non vede motivo d'aver fiducia in loro. Ci tengo troppo alla mia reputazione per questo. Ben detto, Tom, ben detto. Questo è ragionare come si deve. Ed io non mi rifiuto mai di aiutare la gente quando è decisa a farsi onore. C'è un giovanotto di 22 anni sul quale ora ho messo gli occhi. Per quel giovanotto farò quel che posso. Quello ha del midollo. Ma vedete, ha fatto buon uso del proprio tempo. Un calcolatore di prim'ordine che vi può dire su due piedi la cubatura di qualunque cosa. E l'altro giorno mi ha suggerito un nuovo sbocco per la scorza svedese. È uno straordinario conoscitore di manufatti, quel giovanotto. Farei meglio a mettermi a studiare la tenuta dei libri, non è vero, zio? Disse Tom, bramoso di mostrare la propria sollecitudine di applicarsi. Sì, del male non ve ne farà, ma... Ah, Spence, eccovi di ritorno. Bene, Tom, per ora non c'è più niente da dire, credo, e io devo tornare ai miei affari. Addio, ricordatemi alla mamma. Mister Dean gli tese la mano con aria di amichevole congedo e Tom non ebbe il coraggio di fare altre domande, massime alla presenza di Mister Spence. Così tornò ad uscire nell'aria fredda e umida. Dovette andare da zio Glegg per quel denaro della cassa di risparmio. Quando uscì, la nebbia si era addensata ed egli non poteva vedere molto lontano dinanzi a sé. Ripercorrendo la River Street, quando fu a pochi passi dalla vetrina di una bottega, fu colpito dalle parole Mulino di Dorlcote, a grandi lettere su un cartello messo lì come per attrarre il suo sguardo. Era il catalogo della vendita che doveva avere luogo nella settimana entrante, e fu per lui una ragione di affrettarsi ad uscire dalla città. Rifacendo il cammino verso casa, il povero Tom non formava più dei progetti per il lontano avvenire. Sentiva soltanto che il presente era molto duro. Gli pareva che zio Dean gli facesse un torto a non avere fiducia di lui, a non vedere di primo acchito che gli se la sarebbe cavata molto bene, cosa di cui Tom per parte sua era sicuro come della luce del giorno. Evidentemente egli, Tom Tulliver, doveva essere considerato come un essere di poco conto a questo mondo. Per la prima volta si sentì il cuore stretto dall'impressione di essere davvero molto ignorante e capace di ben poco. Chi era quell'invidiabile giovanotto che sapeva dir su due piedi la cubatura delle cose e dare dei suggerimenti per la scorza svedese? La scorza svedese! Tom era avvezzo ad essere completamente soddisfatto di sé, ad onta dei suoi fiaschi nelle dimostrazioni matematiche, ma ora, si sentiva d'improvviso in condizioni di inferiorità per il fatto di sapere meno cose che altri. Doveva esserci un mondo di cose connesse con quella scorza svedese che, soltanto le avesse sapute, potevano aiutarlo nella carriera. Gli sarebbe stato più facile di far bella figura con un cavallo focoso ed una sella nuova. 2 ore prima, quando stava andando a St. Ogg's, Tom vedeva davanti a sé il lontano futuro, come avrebbe mirato l'affascinante distesa di un liscio banco di sabbia, di là da una barriera di ciottoli ruvidi. Allora era sopra una proda d'erba e pensava che i ciottoli si sarebbero presto potuti superare, ma ora i suoi piedi erano sulle pietre aguzze, la barriera di ciottoli si era estesa e il banco di sabbia si era ridotto a una lista molto stretta. Cosa t'ha detto zio Dean, Tom? Disse Maggie prendendo Tom a braccetto mentre questi con aria cupa si scaldava al fuoco della cucina. Ti ha detto che ti darà un posto? No, non ha detto questo. Non mi ha fatto alcuna promessa precisa. Pareva pensasse che io non posso tenere un posto veramente buono. Sono troppo giovane. Ma non ti ha parlato con benevolenza, Tom? Con benevolenza? Bah, a che serve parlare di questo? Benevolo no, poco mi importerebbe, purché io potessi farmi una posizione. Ma è un tale fastidio ed una tale seccatura. Sono stato in collegio tutto questo tempo a studiare il latino e tante altre cose, ma nemmeno una che mi sia utile. E ora lo zio dice che devo mettermi a studiare la tenuta dei libri e la contabilità e via di seguito, all'aria di considerarmi come un buono a nulla. E Tom torse la bocca in un'espressione amara mentre fissava il fuoco. Oh, che peccato di non avere qui Domini Sampson, disse Maggie, che non poteva tenersi dal mescolare un po' di giocondità alla loro tristezza. Se mi avessi insegnato a tenere i libri in partita doppia e secondo il metodo italiano, come ha fatto con Lucy Bertram, ora io potrei insegnarlo a te, Tom. Tu insegnarmi? Sì, lo credo bene, sempre il tuo solito tono, disse Tom. Caro Tom, facevo soltanto per scherzare, disse Maggie, appoggiando la guancia alla manica della giubba di lui. Però è sempre la stessa storia, Maggie, disse Tom, con quel leggero cipiglio che prendeva quando stava per mostrarsi giustamente severo. Tu ti metti sempre al di sopra di me e di tutti, e ho già dovuto avvertirtene parecchie volte. Non bisogna parlare con le zie e gli zii come hai fatto tu. Dovevi lasciare a me d'occuparmi della mamma e di te e non metterti avanti. Tu ti credi di saperla più lunga di tutti, ma hai sempre torto. E io sono in grado di esprimere un parere molto meglio di te. Povero Tom. Proprio allora aveva ricevuto una lezione ed era stato costretto a riconoscere la sua inferiorità. E la reazione del suo carattere forte e prepotente doveva in qualche modo prodursi. Ed ecco che gli si presentava un caso in cui poteva con giustizia mostrare il suo predominio. Le guance di Maggie si infiammarono. Le sue labbra tremarono per un conflitto di risentimento e di tenerezza e per un certo rispetto misto d'ammirazione verso il carattere di Tom, più fermo e positivo. Non rispose immediatamente. Parole di viva collera le salivano alle labbra, ma furono respinte e finalmente ella disse: «Spesso tu mi credi vanitosa, Tom, mentre in quel che io dico non c'è mai questo sentimento. Non voglio mettermi al di sopra di te. So che ieri tu ti sei comportato meglio di quanto abbia fatto io, ma sei sempre così aspro con me, Tom». A queste ultime parole il risentimento tornava a spuntare. «No, che non sono aspro», disse Tom con grave decisione. «Sono sempre buono con te e lo sarò sempre, avrò sempre cura di te, ma tu devi stare attenta a quello che io ti dico». In quella entrò la mamma. E Maggie scappò perché lo sgorgo di lacrime che la sentiva prossimo non sfogasse fino a tanto che ella non era in salvo al piano di sopra. Furono lacrime molto amare. A questo mondo tutti parevano così duri e cattivi con Maggie. Non c'era quella indulgenza né quella tenerezza che ella s'era immaginata quando si rifabbricava il mondo nelle sue fantasticherie. Nei libri c'erano dei personaggi sempre gentili o teneri, contenti di fare ciò che rende gli altri felici, che non mostravano la loro bontà coi rimproveri. Il mondo fuori dei libri non era lieto, pensava Maggie. Pareva un mondo dove la gente si comportava meglio verso quelli che non pretendeva di amare e con cui non aveva alcun legame. E se nella vita non c'era amore, che poteva esserci per Maggie? Null'altro che povertà. E quel continuo spettacolo delle meschine pene della mamma e forse anche dello straziante rimbambimento del babbo. Non c'è disperazione così nera come quella della prima giovinezza, quando l'anima è piena di desideri e non ha ancora vecchi ricordi, né trova un complemento di vita nella vita degli altri. E ciò nonostante noi spettatori consideriamo con leggerezza quella prematura disperazione, quasi che la nostra visione dell'avvenire possa illuminare il cieco presente di chi soffre. Maggie, nella sua veste bruna, con gli occhi arrossati e i densi capelli buttati all'indietro, dal letto dove giaceva suo padre, alzava lo sguardo verso le tetre pareti di quella triste camera che era per lei il centro dell'universo. Ed era una creatura piena di vive, appassionate aspirazioni verso quanto c'è di bello e di felice, assetata di tutte le conoscenze, con l'orecchio teso ad una musica di sogni che moriva prima di accostarseli. Con una cieca ed inconscia brama di qualcosa che potesse amalgamare le mirabili impressioni di questa vita misteriosa e dare all'anima sua il senso di trovarvisi a proprio agio. Posto un simile contrasto tra il mondo esteriore e il mondo interiore, non fa meraviglia che possano nascere dei dolorosi conflitti. 6. Nel quale si confuta il pregiudizio volgare contro il dono di un temperino. In quell'oscura stagione di dicembre, la vendita dei mobili durò fino alla metà del secondo giorno. Mr. Tulliver, che nei suoi intervalli lucidi aveva cominciato a manifestare un'irritabilità che spesso pareva produrre come diretta conseguenza il ritorno della spasmodica insensibilità e rigidezza, era rimasto in quello stato di morte vivente durante le ore critiche in cui il rumore della vendita era arrivato più vicino alla sua camera. Mr. Turnbull aveva concluso che a lasciarlo stare dov'era si correva minor rischio che non a trasportarlo nella capanna di Luke. Idea che il buon Luke aveva proposto a Mrs. Tulliver, pensando che sarebbe stato molto male se il padrone fosse stato risvegliato dal rumore della vendita. La moglie e i ragazzi erano rimasti seduti, prigionieri, in quella camera silenziosa, spiando la grossa figura battuta sul letto e tremando che quel viso smorto manifestasse d'improvviso una qualche risposta ai suoni che incidevano sui loro orecchi con sì ostinata, dolorosa iterazione. Ma finalmente giunse al termine quel tempo di opprimente certezza e di sorveglianza inquieta, il secco suono di una voce, quasi altrettanto metallica quanto il colpo di martello che la seguiva, era cessato. Il calpestio dei passi sulla ghiaia era dileguato. Il viso biondo di Mrs. Tulliver pareva invecchiato di 10 anni nelle ultime 30 ore. Testa della povera donna aveva lavorato a indovinare quando i suoi oggetti favoriti venivano aggiudicati dal terribile martello. Il suo cuore aveva battuto follemente all'idea che prima un oggetto, poi l'altro, sarebbero stati riconosciuti come suoi nella odiosa pubblicità del Leondoro, e frattanto era dovuta restarsene seduta, senza dar segno della propria agitazione interna. Simili cose scavano delle rughe sui volti fiorenti e allargano le strisce di bianco tra i capelli che un tempo parevano essere stati tuffati nella pura luce del sole. Già alle 3 Kezia, la serva, dal gran cuore e dal cattivo carattere, che squadrava tutta la gente venuta alla vendita come suoi nemici personali, i quali portassero appiccicato alle suole un fango di qualità particolarmente ignobile, aveva cominciato a scopare e a lavare con un'energia accompagnata da un continuo mugugno a bassa voce contro la gente che veniva a comperare le cose degli altri, senza farsi riguardo di insudiciare i tavoli di Mogano, a ripulire i quali gente migliore di loro aveva dovuto logorare una quantità di stracci col sudore della propria fronte. Non già che scopasse indistintamente dappertutto, perché altro sudiciume della stessa orribile qualità sarebbe stato portato ancora da coloro che dovevano venire a prendersi le cose acquistate. Ma le stava a cuore di ridurre la sala dove si era seduto quel porco fumatore di pipa dell'usciere a una certa apparenza di modesta comodità, quale poteva essere data dalla pulizia e da quei pochi mobili che erano stati comperati dalla famiglia. La sua padrona e i ragazzi avrebbero preso il tè lì in sala quella sera. Tale era la decisione di Kezia. Fu tra le 5 e le 6, verso la solita ora del tè, che ella salì a dire che Mr. Tom era atteso. La persona che lo cercava era in cucina, e al primo momento, al poco lume del fuoco e della candela, Tom non ebbe neppure la più vaga sensazione di conoscere quella persona piuttosto grossa ma elastica, di forse 2 anni maggiore di lui, che lo guardava con un par di occhi azzurri cerchiati di lentiggini e s'aggiustava alcune ciocche di capelli rossi e crespi con una viva intenzione di rispetto. Un berretto piatto di tela cerata e un certo residuo di sudiceria luccicante sul resto dell'abito, come tavolette preparate per scriverci sopra, suggerivano l'idea di un mestiere che si esercitasse sui bastimenti, ma questo non valeva ad aiutare la memoria di Tom. «Servitor vostro, Mr. Tom», disse l'individuo dai capelli rossi, con un sorriso che pareva attraversare l'aria di melanconia che si era imposto. «Voi non mi riconoscete, forse», continuò, mentre Tom seguitava a guardarlo interrogativamente. «Ma io avrei piacere di parlarvi un momento a quattro occhi, se permettete». «In sala c'è il fuoco acceso, Mr. Tom», disse Kezia, che non era del parere d'abbandonare la cucina nel momento critico dell'arrostitura delle tartine. «Venite di qua, allora», disse Tom, domandandosi se quel giovanotto fosse adibito agli scali della Guest & Co., perché la sua immaginazione correva continuamente verso quel punto particolare e zio Dian poteva da un momento all'altro mandargli a dire che c'era un posto disponibile. Il fuoco brillante della sala Era la sola luce che lasciasse vedere le poche sedie, la scrivania, il pavimento senza tappeti e l'unica tavola. No, non l'unica. Ce n'era un'altra in un canto sopra cui stava una grossa Bibbia con pochi altri libri. Per prima cosa Tom avvertì quella strana e nuova nudità, avanti di pensare a guardare di nuovo quel viso illuminato anch'esso dal fuoco, che gli lanciò furtivamente un'occhiata interrogativa e un po' timida, mentre una voce del tutto sconosciuta diceva: «Come, non vi ricordate dunque di Bob? Quello a cui avete regalato il temperino, Mr. Tom?» E contemporaneamente il temperino dal ruvido manico venne estratto di tasca e l'ampia lama aperta come una dimostrazione irrefutabile. «Come? Bob Jakin!» disse Tom, ma senza cordialità né contentezza, perché si sentiva un po' vergognoso di quella vecchia amicizia simboleggiata dal temperino e non era affatto sicuro che i motivi per cui Bob gli faceva visita fossero del tutto lodevoli. «Già, già, Bob Jakin. Jakin, bisogna dirlo, perché di Bob ce n'è tanti. Quello con cui voi correvate dietro agli scoiattoli il giorno che sono caduto giù dal ramo e mi sono scorticato mica male le gambe, ma però lo scoiattolo non l'ho mollato, ed era maschio, e questa piccola lama è rotta, vedete, ma non ho potuto farne mettere una nuova, perché avrebbero potuto ingannarmi e cambiarmi il temperino, e una lama come questa non si trova in tutto il paese. E sarà che è abituata alla mia mano, e non c'è mai stato nessuno che mi abbia regalato qualche cosa, meno quello che mi sono acciuffato io con la mia furbizia, tranne che voi, Mr. Tom. Se non era di Bill Fawkes, che mi ha regalato un piccolo terrier invece di annegarlo, io ho dovuto raccontargliela lunga prima che me lo desse.» Bob parlava volubilmente, con voce aspra, piuttosto acuta, e arrivò in fondo al suo lungo discorso con sorprendente rapidità. Poi, quando ebbe finito, si mise a passare con tenerezza la lama del temperino sulla manica. «Bene, Bob», disse Tom con leggera aria di protezione, perché i precedenti ricordi l'avevano disposto ad essere, nei limiti del ragionevole, cordiale, quantunque di tutta la sua amicizia con Bob non ci fosse episodio che gli ricordasse meglio che la causa per cui avevano litigato. «Che cosa posso fare per voi?» «Ma no, Mr. Tom», rispose Bob, chiudendo il temperino con un rumore secco e rimettendoselo nella tasca, dove pareva cercare qualcosa d'altro. «Non sarei venuto da voi adesso che avete dei fastidi e la gente dice che il padrone, che io avevo l'incarico di spaventargli i passeri e mi frustava un po' per scherzo quando mi coglieva a mangiare le rape, dice che non tirerà su testa mai più. Non sarei venuto adesso da voi a chiedervi di regalarmi un temperino, perché una volta me ne avete regalato uno. Se un individuo mi fa un blu in un occhio, ne ho abbastanza e non vado a chiedergliene un altro prima d'aver arrangiato i conti. E un buon servizio, in tutti i modi, merita di essere ricambiato quanto una canagliata. Bambino non lo ridiventerò mai più, Mr. Tom, e voi eravate il moccioso a cui io volevo più bene quando ero anch'io un moccioso, per quanto mi abbiate malmenato e non abbiate più voluto vedermi. C'era Sic Brambi, c'era, che gliele potevo suonare come mi pareva e piaceva, ma santo Dio, viene la barba a picchiare un compagno, che tanto non si riesce mai a fargli vedere quel che si vuole che veda. Conosciuto dei ragazzi che potevano fissare un ramo finché gli occhi gli schizzavano fuori dalla testa, prima d'aver capito che la coda di un uccello non era una foglia. Gran brutto affare di andare con dei simili babbei. Ma voi siete sempre stato speciale per vederci bene, Mr. Tom. E io potevo contare su di voi, che arrivaste in tempo col vostro bastone sul collo di un topo che scappava, o di una talpa, o di qualcosa del genere, quando battevo le fratte.» Bob aveva tirato fuori un sordido sacco di canovaccio e forse non l'avrebbe ancora finita lì se Maggie non fosse entrata nella stanza, lanciando su di lui uno sguardo di sorpresa e di curiosità, ragione per cui egli tornò a riavviarsi col dovuto rispetto le sue ciocche rosse. Ma subito l'impressione di quella stanza così mutata colpì Maggie con tale violenza da soverchiare il pensiero della presenza di Bob. Immediatamente i suoi occhi si distolsero da lui per correre al punto dove erano stati appesi gli scaffali dei libri. Non rimaneva più che uno spazio rettangolare di muro, meno sbiadito, e sotto di questo la piccola tavola con la Bibbia e i pochi altri libri. «Oh, Tom!» ella gridò, stringendosi le mani. «Dove sono i libri? Mi pareva che zio Glegg avesse detto che li comperava lui!» Non l'ha poi fatto e non ci hanno lasciato che quelli. Credo di sì, disse Tom con una specie di disperata indifferenza. Perché avrebbero dovuto comprare tanti libri quando hanno comprato così pochi mobili? Oh, ma Tom, disse Maggie con gli occhi pieni di lacrime, mentre si precipitava verso la tavola per vedere quali libri si erano salvati. Il nostro vecchio, caro viaggio del pellegrino, che tu avevi colorito con la tua piccola scatola di matite, e quella figura del pellegrino col suo mantello che pareva proprio una tortorella, Dio mio! Seguitava Maggie, mezzo singhiozzando mentre spostava quei pochi libri. Pensavo che non ce ne saremmo mai separati fin tanto che vivevamo. Tutto ci abbandona. Alla fine delle nostre vite non avrà nulla che ne ricordi il principio. Maggie si scostò dalla tavola e si buttò su una sedia, con dei grossi lacrimoni pronti a colarle giù per le guance, completamente dimentica della presenza di Bob, che stava guardandola con l'ostinato stupore di un animale intelligente e muto che percepisca più di quanto comprende. Bene, Bob, disse Tom, sentendo che l'argomento dei libri era fuori di luogo. Mi immagino che siate venuto a vedermi perché ci stanno cadendo dei guai. Questo è molto buono da parte vostra. Vi dirò di che si tratta, Mister Tom, disse Bob, cominciando a slegare il suo sacco di canovaccio. Vedete, in questi 2 anni io ho lavorato su un barcone, è così che mi sono guadagnato la vita, meno che quando lavoravo ai forni come avventizio nel mulino di Torri. Ma un paio di settimane fa ho avuto uno straordinario colpo di fortuna. L'ho sempre pensato che ero un tipo fortunato perché non ho mai teso una trappola senza prendere qualche cosa, ma questa volta non era una trappola, era un incendio al mulino di Torri e io l'ho spento, altrimenti avrebbe preso fuoco l'olio. Il padrone mi ha dato 10 sovrane, me le ha date lui in persona la settimana scorsa. E prima di tutto mi ha detto che era un tipo in gamba, ma questo l'ho sempre saputo. Poi ha tirato fuori le 10 sovrane. E questo era qualche cosa di nuovo, qui, tutte meno una. E Bob vuotò il sacchetto sul tavolo. E quando le ho avute, la mia testa si è messa tutta a bollire come una pentola di brodo a pensare che cosa mi sarei potuto mettere a fare, perché c'erano parecchi commerci a cui avevo pensato. E del barcone sono completamente stanco, quello vi stiracchia le giornate che diventa lunghe come budelli di porco. E prima di tutto ho pensato che potevo tenere dei furetti e dei cani e fare il cacciatore di topi. Poi ho pensato che mi sarebbe piaciuto un genere di vita più grandioso, che non lo conoscessi ancora così bene, perché il mestiere di cacciar topi lo so a memoria. E ho pensato e ripensato finché ho deciso di fare il merciaiuolo. Perché sono dei furbi che sanno il fatto loro i merciaiuoli, e così porterei sempre le cose più leggere nel mio carico. E poi un mestiere in cui uno si serve della sua lingua, che viceversa è completamente inutile nella caccia ai topi e sui barconi. E potrei girare il paese in lungo e in largo e imbrogliare donne coi miei discorsi, e avere il mio pranzo caldo all'osteria. Dio mio, la bella vita che sarebbe. Bob si fermò e poi disse con decisione sprezzante, come se volgesse risolutamente le spalle a questo quadro paradisiaco. Ma ora non me ne importa più, nemmeno un cavolo. Una delle sovrane l'ho cambiata per comprare un'oca a mia madre per il pranzo. E poi ho comprato un vestito di felpa blu e un berretto di pelle di foca, perché se avevo voglia di fare il merciaiuolo bisognava che lo facessi in maniera rispettabile. Ma ora non me ne importa più, nemmeno un cavolo. La mia testa non è una rapa e forse mi capiterà l'occasione di spegnere un altro incendio. Sono un tipo fortunato io. E così vi sarei grato, Mister Tom, se accettate queste 9 sovrane e ve ne servite per tirarvi un poco su, se è vero che al padrone è preso un colpo. Con queste non potrete arrivare molto lontano, ma forse vi potranno essere di aiuto. La commozione di Tom fu viva, abbastanza per fargli dimenticare la sua fierezza e i suoi sospetti. Siete proprio un buon figliolo, Bob, disse arrossendo con quel piccolo tremito di timidezza nella voce che dava una certa grazia perfino alla sua fierezza e severità. E non mi dimenticherò mai più di voi, se anche questa sera non vi ho riconosciuto. Ma non posso prendere le 9 sovrane, a voi porterei via una piccola fortuna, mentre a me non servirebbero granché. Davvero, Mister Tom? Disse Bob con rammarico. Non dite così per paura che io ne abbia bisogno? Non sono un povero diavolo io. Mia madre fa buoni guadagni raccattando piume e stracci, e se non mangia che pane e acqua, questo le va tutto in grasso. E io sono talmente fortunato. Ma temo che voi non lo siate altrettanto, Mister Tommy. In ogni caso il vecchio padrone non lo è, e così voi potreste prendere un po' della mia fortuna, che non ci sarebbe nessun male, diamine. Un giorno ho perfino trovato un prosciutto nel fiume. Era caduto da uno di quei bastimenti olandesi con la poppa rotonda, lo giurerei. Via, pensateci meglio, Mister Tom, per la nostra vecchia amicizia, se no, crederò che mi serbiate rancore. Bob porse le sovrane, ma prima che Tom parlasse, Maggie, giungendo le mani e guardando Bob con aria pentita, disse: Oh, mi dispiace tanto, Bob, non avevo mai pensato che foste così buono. Davvero credo che siate la persona più generosa del mondo.